come l'hai mangiato ieri cosa, dottore? Ma amore, ma ascoltate. Beh, ma sono andata perché lo sa fare, adesso smontata, però non è così difficile. Adesso si abbassa, li metti e vedi quanto fa. Una volta smontata. Adesso togli la batteria. La batteria lì dentro, lo schiaccio, lo vuole, li prendo la spazio, li fai, te l'ho detto, prendo un po' di silicone, le butti dentro e la spazio glielo alisci. Scoppa il forno, adesso aspetta poi, no? Anzi, forse lui non fa di cosa perché il silicone è elastico, capito? Sì, è comodo, certo. Vabbè, facciamo girare Antonio. Ehi, ha già, sono al telefono, lasciatemi un secondo, poi riprendo. A chi tocca adesso? Torino Kawasaki. Romito, dice Tonino. Tonino, addormentato, sì. Oh, aspetta, che tanto Tonino risponde. E voglio dire, la cassetta è quella che è appoggiata sul bumper, vero? Monoblocco, giusto? È un monoblocco. Esatto, esatto. È tutt'uno, water e cassetta, tenuta da due fermi. Lateralmente c'è l'entrata dell'acqua e poi sicuramente sopra, anche se non ho vista, immagino che c'è il buco per far scendere l'acqua dal water. Allora, cassetta sopra, al lato destro, al lato sinistro della cassetta in alto. Quindi hai solo due viti sotto e basta, che collegano la batteria al water e c'è un gommino al centro. Ed è un monoblocco, quella lì non è difficile da sostituirla perché o è la tua o una che sia vicina, sia adattabile. E ci sono anche, bisogna avere il modello, perché ci sono dei water che hanno, che si può applicare anche a un altro tipo di cassetta di inverno, cioè fanno una cassetta di appoggio, solo che bisogna capire com'è. È un tutorial, se tu prendi solo la cassetta e gliela metti. Addirittura ti dico di più un mese, forse non vuoi. C'è gente che ha preso una cassetta di inflante, quelle schienistoni, quelle zaino, le cassette a muro. E ha fatto due buchi elastici, cioè due buchi per bloccarla e è stata scritta anche una così. Ma voglio dire, proprio non ti interessa, non vuoi spendere, ci sono i modi per recuperare. Però se sei pratico, un po' di smonta, togli la batteria, gli metti il silicone e sto bene. Perché se metti quella zaino poi lo scarico dove glielo metti, che c'è là sopra il water. Bravo, bella domanda, tu prendi solo la cassetta zaino, ti schiaccio, togli il tubo che è di bianco, quello da 50 che collega al water, quello lo togli, prendi la cassetta zaino, senza il tubo la appoggi sopra il water, mi hai capito? Dove hai tu adesso i due dadi che mantengono la cassetta e li metti i dadi normali, senza tirare la moto, giustamente bisogna farla con delle cassette, capito? E appoggi la cassetta in parte, sopra il quadro, capito? Dai cassettini, non ce n'è. Però, ripeto, guarda, è un lavoro a fare uno che sia, che si sappia giocare. Già lo so io. Doveva fare un amico che è idraulico e metto che mi cercava la prima, ha preso le misure a vedere se trovava la cassetta proprio originale, se la trova da qualche parte, magari il magazzino ce l'hanno perché ha fatto il magazzino, ma mi ha detto è difficile trovarla perché sono passati troppi anni ed è un po' difficile perché hanno il buco che deve combaciare, capito? Bianco. Sì, però ci sono delle cose che hanno fatto. Sì, bisogna che mi aspetti per dire se punteggio, vediamo un po' cosa si può fare. Con la zaino li fai i buchi per i fermi e poi lo scarico dove glielo fai al centro, li fai il buco dello scarico. Con la sapersi che si possano utilizzare anche altri sistemi, dai. Manda bene. Antoine Scioli. È quello. Supplente a bordo. È arrivato l'alimentatore nuovo. L'alimentatore? Ma Rosmetro. Ah, come quello là è uguale. Aspetta. Uguale all'altro che ha detto? Quasi. Non capisco. Cos'è Daiva? Prova a vedere quanto vi arriva, te lo dico subito. Per me non è che mi interessa quanto arrivo, perché tanto adesso vediamo un po' ora. Ecco qua, così forse questo non possa andare. E io sto uscendo con 3 batte e mezzo, non sto uscendo forte, dai. Ascolta Vanni, quando ti sta arrivando adesso? Guarda, 1, 2, 3, prova. E adesso lo fai, per il film la vai molto più presto, molto più presto. Scappa. Sì, sto arrivando adesso. Sì, vabbè, non è male, sono uno super po' a farlo. Sì, 9 qua, strano. Allora, da quanto a parte, capito? Cosa Vanni? Da quanto a parte. Ah, stai usando l'amplificatore. Vabbè. E io ti sto arrivando 7 detto. Qui sono quasi 50, vedi il modulato un po' di più, ma comunque così. 7 sì adesso. Dovremmo essere più o meno uguali, giusto? Adesso sei 7, sì. Se poi aumenti, sicuramente aumenti anche il 9:05 che arrivo. E Franco abita in quella strada dove c'è il go-kart sopra il tetto, di fronte, con la macchinetta sopra il tetto, su con la busta. E praticamente la strada che porta da Sorso, da Selluri ti porta a Sorso. Dove ci sono i cavalli a fianco, la conosci questa strada. Io non ti dico altro, ti dico solo che facevo le consegne quando c'era la Sisa lì, facevo le consegne in tutti i negozi di Sisa, perché ero l'autista della Sisa. Ci vedevamo più volte, dai, ci vedevamo più volte, ma io venivo lì a consegnare la frutta, a consegnare il fresco, tutte queste cose qua. Facevo quel negozio che c'è in piazza, che adesso non ci abbiamo più, poi facevo quello di Sennuri, dove c'era la ex panetteria, dove c'è quella salita alta alta, e poi... Insomma, li rifornivo tutti, facevo platamola, tutta quella zona lì. Lo so, ma c'era troppa concorrenza lì, capito? Non faceva tenere i negozi aperti lì, non ne valeva la pena. Ma so, ma infatti chi funziona di più è cosa, quello via, vabbè, mia marina è stata fuori pubblicità. Quella è una di quelle che lavora di più, poi ce n'è un'altra ancora più giù, ancora un altro più giù che comunque è un fine, sta lavorando bene ultimamente, perché meno sollecitone più la gente va lì a comprare. E la cosa è così. Purtroppo c'è crisi ed è un casino. Infatti chi sta andando sempre meno e la gente costa quello che costa. Beh certo. È così fra. Sì, anche via Marina l'abbiamo avuto noi, te lo ricordo, dove c'è la chiesa a fianco. Sì, è un po' di anni fa, e anche qui a Sorso, quindi conosco bene Sorso e anche quasi tutti a Sorso, perché poi è stato il mio lavoro, per me che conosco un po' di gente, nel senso che ho lavorato un po' dalle case, là, per i cantieri. Chi ero convinto che lavorassi nella zona industriale, cazzo e fra? Sì, vero, lì ho lavorato per un po' di tempo, perché ho lavorato con un'azienda che mi serviva un tubista, un periodo, quando poi, però comunque idraulico, lo faccio sempre, ho fatto anche lì, all'interno lì ho curato anche, però sempre non quella che è vicino a Sorso, ma quella che è ancora più giù ho lavorato, proprio su un'altra industriale, a centrale infatti, lì ho curato anche tutti i bagni, ne ho fatto di studi. Sì, lì ho lavorato qualche anno. KK, già va bene, dai. Andava, infatti noi ci conoscevamo sempre alle 5:30, io dovevo entrare a lavorare, verso le 5:15, 5:20 ci vedevamo sempre solo sugli vidriati. Era l'ora di punta, senti a dietro, capito? Purtroppo poi non abbiamo altri problemi e quindi non c'è stato più niente. Pazienza. Adesso siamo al dito. E io adesso sono fermo, non sto lavorando. Sono un'aspettativa non retribuita. Ma mi sei ancora più fortunato di me, almeno a me è un po' da un po' di fare, rimane, appunto. Vabbè, speriamo che finisca con fortuna, anche perché comunque. Se non si lavora non si mangia, quindi è un casino, non so, ancora non abbiamo mai, io penso che il 9 novembre metteremo a uscire questo problema, vedrai. la gente, insomma, se non lavora quest'estate sarà comunque al minimo. Poi è tutto quanto una catena, capito? È tutta una catena, non lavorano le navi, non lavorano gli aerei, non lavora personale a terra, non lavorano gli alberghi, insomma un casino, tutto un casino. Vabbè, no, ma io, per me è stato diverso perché io ho finito il comparto di malattia, sono stato operato, quindi purtroppo mi hanno messo in aspettativa non retribuita, ma in aspettativa io non voglio più rientrare, non ce la faccio più, quindi non rientro. Diciamo che sì, sono già una piccola pensione, la prendo già, capito? La prendo già, però sto aspettando 2 anni ancora, me ne mancano e vado in pensione. Vabbè, speriamo che sia. A me me ne manca ancora qualche anno, per fare 5, ecco, dove sia. Vabbè, io perché c'è uno scivolo di 5 anni, perché ho l'invalidità di 80%, quindi c'è uno scivolo. La mia invece molto meno, quindi mi avevano dato la minima, ma prima o poi faccio l'aggravamento, quindi spero di aumentarla, ma comunque non ce n'è possibilità, sta vendendo, non ce n'è, quindi è quello il problema, purtroppo. E il bello è che non ne vogliono dare, il fatto è quello, perché io l'ho fatta la domanda dell'aggravamento, ho detto perché è venuto qua, se 2 anni fa l'ha già fatta la visita, il dottore questo qua, e ho detto perché mi sono aggravato, e cosa c'è di aggravato? Ecco, questi qui sono i documenti, li prendeva o li buttava voi senza guardarli, ho detto scusi, ma se non li guarda come fa a sapere che cosa c'ho? Perché tu mi dovevi sempre dire, se uno li guarda, ma l'avvocato mi ha detto di fregarmi, e così devi dire, e poi gli accapiscono loro. Sono un bel bastardo, a questo amico mio, che non so se lo conosci, lavorava all'impianto delle gomme, lavorava con Franco, proprio erano insieme, era collega, ha avuto un incidente sulla Buddy Buddy, era in Vespa, questo qui era missato, era fatto andare in mezzo al rugby, l'ha fatto cadere, cazzo, era tutto fratturato, c'aveva le ossa fuori, tutte le ossa appesi, l'hanno ricomposto, c'è tutti fermi nella gamba e cose, e all'impianto gomme lui stava in piedi e praticamente prendeva i panetti di gomma che uscivano e li accatastavano, e gli si faceva tutto il piede gonfio, tutto viola, perché poi l'hanno ricostruito tutto, gli hanno preso un pezzo dal bacino e l'hanno messo nella gamba perché non c'aveva più osso, capito? C'aveva tutto spaccato. Beh, fatto sta che ci aveva l'80%, ha fatto l'aggravamento, ha detto, lei dice ha troppo di invalidità, bisogna abbassare dal 64% che la passiamo, ma cosa sta dicendo, gli ha detto, ma cos'è, amico di voi, gli ha detto, questi tutti gli altri se l'hanno guardato al collega, hanno fatto una faccia, come dire, ma mica sei stronzo. Perché bisogna parlare, vabbè, non si preoccupa, adesso io, lei me la parte, io con la boccata e ve lo so tutto, e poi ci vediamo, perché lo sai cosa è successo, perché li hanno premiati, li premiavano per non dare i punti che spettavano, lo sai cosa è successo, ma io mi avevo fatto, e può fare che ho fatto male, ho un femore brachiale, non l'avevo strappato, non rotto, quel punto mi ha strappato, ho fatto 6 mesi, no, non lo possiamo più tenere in infortunio, quindi lei deve rientrare al lavoro, devo rientrare al lavoro. Intanto lì che sono già in fisioterapia, di più, quindi lei richiede tutto, farmi rientrare le facce e poi ci vediamo, qual è il problema? Capito, questo mi ha guardato, come dire, no, richiede tutto, la malattia, la infortunio e poi ci vediamo. Capito, l'avrei inculato, sai perché l'avrei inculato? Sarei rientrato al lavoro. Ma io mezz'ora dopo avrei chiamato direttamente l'ambulanza, se è andato avrei fatto la denuncia e l'avrei denunciato, perché lui... Hai capito come bisogna fare? Bisogna denunciare questo gruppo. Adesso sono dei delinquenti del suo gruppo. Cioè, invece di darti quello che c'è, fanno di tutto per farti affitti, no? Dice non è il corso del dottore, il dottore deve dire quello è quello che deve dare, non c'è, c'è gente che lo fa poco. Non deve affrontare, capito, un sacco di casini. Anche se sta iniziando a capito, essere un pochettino più caldo, perché questo è il problema che noi abbiamo, e un giorno fa non fanno niente, che hanno fatto molto, e non si hanno, e poi apparano, e parano, e mi aspetta le scappate, non c'era un casino nero, perché non so se sono già partito, ma c'è gente che non c'era più, questo. Aspetta Vanni che vuole entrare qualcuno, avanti se vuole entrare qualcuno. Attenzione, Antenor Riserva ha finito di telefonare. Bobo, bobo, bobo, no, non c'è nessuno, dai, non vuole entrare nessuno. Ce n'era uno che io conosco, che poi ha ricatto questo tipo, che era successo un vino, aveva un problema alla mano questo tipo. E quando si era presentato, poi quelli dell'infortunio sono tremendamente bastardi, perché a me io avevo avuto legamenti rotti più legamenti crociati rotti più il menisco, e praticamente mi ha detto che dovevo rientrare dopo 15 giorni, mi ha detto tu devi rientrare, tanto ti faccio la cosa per rientrare, e gli ho detto faccia come vuole. Sono andato da un ortopedico e mi ha detto con ragione che lei ha dolori, deve essere operato subito perché c'ha il menisco spapolato, un legamento rotto del tutto e l'altro ce l'ha al 50%. Praticamente cosa è successo? Che stavo scaricando un bis delle anguille che era vuoto, lo stavo scaricando dal furgone, per non farlo scendere di colpo mi sono inchinato, la commessa non mi ha visto, ha tirato il bis e ci sono caduto dentro io, ho perso l'equilibrio e ci sono caduto dentro e mi sono fatto questo problema. Praticamente questo di Porto Torres, Mura, senza fare nomi, mi hanno fatto fare tutta quanta la terapia, sono andato a rifare la visita, mi ha tuzzinato, mi ha dato un colpo alla gamba, io cazzo, è uscita anche l'altra ortopedica che c'era, che era un'amica mia, ha detto Gianni cosa c'è? E il tuo collega, ma cazzo un bastardo, mi ha girato cazzo la gamba e ha detto mossa strategica per vedere se gli faceva male, brutto bastardo. Poi sono ritornato dove stavo facendo fisioterapia a Porto Torres, al Sant'Epite, la stavo facendo e praticamente perché a Sassari non c'era posto e mi hanno mandato a Porto Torres. La stavo facendo lì, mi ha detto scusi ma lei era già a posto e adesso di nuovo è venuto così tutto quanto che non riesce a muoversi. E gli ho raccontato la storia, si sono guardati e dice questo è un bastardo, lo sappiamo che lui lo fa anche qua, è un pezzo di gozzo, mi ha detto. Te l'immagini? Il problema è che quando si parla di una cosa veramente è incapito con fare quello che vuole lui, perché è un dottore, a quelle che aggamba non uscì e poi mi dice io la mia reazione, lui ha fatto così, io ho detto di tutto, Se noi paghiamo sempre là. E tanto a me mi hanno operato per quella cosa lì, mi hanno operato al ghero, hanno dovuto operare al menisco, legamenti. Ma sono cose lunghe e poi mamma mia, avvocati, chi ci mi dà, lascia perdere, io quando vedo avvocati già mi si addrizzano i capelli. Guarda, io sono a capo del lavoro, lunga sia, quindi immagino. Ci credo Vanni, ma durano un bel queste cause di lavoro. Io adesso fra poco vi dovranno dare la liquidazione, perché ho la riunione all'ispettorato del lavoro, però lo rimandano sempre, sono mesi e mesi che stanno rimandando e tanti sono cosetta di là, hai capito? Però che cosa? A voi arrivi, non fare il discorso che ho detto, la mia sarebbe quasi finita perché avevo a febbraio ho più di marzo di fare, avevo l'ultima niente, con l'ultimo testimone che stanno messo, perché io sono stato ricettato in malattia, no? Oddio, non mi è ancora venuto niente, no? Io sono stato ricettato in malattia, penso un po'. E quindi non me la sono finita. Tanto adesso sono cantati a tempo e ci saranno la data a Belgiato, ma credo che quest'anno si chiuda, perché ormai non si chiuda. E poi vediamo cosa succede. Ma tu di malattia quanto ne hai fatto? Sei più di 6 mesi? No, quella è un'altra cosa, no, un mese c'è la malattia, no, siccome io è nato un problema, si è andato in malattia, l'ho cercato a tutti, era dentro la malattia e poi l'ultimo l'ho cercato a me, l'ho cercato per esempio lunedì, però io ho finito, cioè il martedì mi ha detto, ho cercato, non ricordo, comunque io ero ancora in malattia e lui, quando gli ho mandato una email, poi dicevo di confermarmi il luogo di lavoro, nel senso di lavorativa, lui mi ha detto che ero licenziato e mi confermava licenziamento. Ho detto bene, va bene, vedi, capito. Mi ha confermato licenziamento che mi aveva dato precedentemente, capito? Quindi adesso avevo già problemi. Tanto dice quando sei malattia, sei licenziato in età, non ce n'è, si blocca tutto. Però questo, siccome penso di essere più stupido, l'ha fatto. Devono passare 180 giorni per licenziare. Io ho fatto 180 giorni, tutte le ferie e tutti i permessi, meglio tutti goduti, ma non l'ho fatto per ripicca o cose del genere, l'ho fatto perché in effetti stavo male veramente, non potevo camminare, avevo il femore consumato, mi hanno dovuto operare, mi hanno dovuto mettere la protesi, non è che è uno scherzo. Sì, quello che lo so, no, io per un'altra cosa, no, c'era poco lavoro, quindi è successo questo, io volevo le malattie, già stavo molto male, mal di schiena, non sapevo più della schiena, quindi ho detto, vabbè, me ne va le malattie e il freddo. Sì, sono andato in malattia, ho fatto una settimana e poi, capito, mi ha licenziato la malattia e vabbè, no, non è grave, e quindi... Non dobbiamo riprendere il titolare, sono diretti. Perché mi ha detto una, vabbè, questo qua mi ha detto che è stato chiuso, mi ha detto, non hai capito, io hai già perso, a me non ti preoccupare. Per quello ha detto la bottiglia conservala perché al momento dell'acqua perché prendiamo, no? Però l'altra volta non l'ho visto così allegro, capito? Era un po' triste. Perché comunque sia, non, nella storia italiana non esiste la legge, dice che tu quando sei malattia si separa. al 100%, capito? E il licenziato, io dovrei rientrare, oggi per esempio a lui oggi mi dà qua, lì la mattina stessa mi devo lavare il licenziamento, hai capito la notizia? Ma non all'interno della macchina, non esiste. Ehi, ho capito, però la malattia la devi fare con causa, devi avere qualche cosa veramente. Tu c'è la tua malattia, usci io, bambino, e chi te la ragione? Ma allora, tu vai in malattia come vuoi, non hai importanza, puoi anche sentirti male, puoi avere anche la febbre, cosa vuoi, che causa ci vuole per andare in malattia? Se tu vai al dottore e non riesci a camminare perché hai fatto un tiramento, o perché hai la febbre, o perché hai è malattia, non esiste, lì vai in malattia, la malattia è così. Ma in macchina dà il certificato al tuo datore di lavoro, finito, oppure va a essere automatico e così via. Non c'entra niente, non è giustificata, la macchina è giustificata fino a che lui non trovi il contrario. Cioè ti manda un medico a casa e il medico può dire no, tu sei in grado di continuare a lavorare, quindi tu rientri a lavorare. Ma nel momento che ti lascia il certificato il dottore, anche il tuo dottore di casa, di famiglia, sei malattia, punto, non esiste che io vengo, non è dovuto. Io posso anche se tanto, dimmi se uno si sente male una settimana e fa un po' di febbre, lo già fa, avanti, non è giustificato. Ho sofferto anche tu hai un problema che la mattina la gamba non riusciva a metterla in terra, avanti, e non riusciva a camminare, cos'è? Non è giustificato. E una volta che il dottore certifica che tu non sei idoneo, a lavorare tutto il giorno non si fa, e lei dice non esiste una cosa diversa, ma chi è quella lì? Io non sono più idoneo al lavoro, capito? Questo qui me l'ha messo il medico del lavoro, ha messo che non sono più idoneo a lavorare, e malgrado la mia professionalità c'è scritto che non posso fare manco una mansione inferiore. Se uno che si gioca la portante ai suoi livelli lì, un po' più basso di te. Sì, ma non c'entra niente, questo è tutto un'altra cosa. Non c'entra niente quello che stai dicendo tu. Allora noi parliamo del fattore normale. Uno succede che vai in malattia perché si sente male, lui ha mal di testa, confia di cose, vai in malattia appunto. Una volta che il dottore ti dà il certificato, da quel momento fino alla fine della malattia, quindi licenziato, punto. Poi, quando rientri, eccolo qua, ti dice, non c'entra niente, poi tu magari sì, non riconosci il lavoro, giustamente, perché rischiamo di sfogliare il tuo lavoro, non è compatibile con il tuo fisico, con i tuoi problemi, ma è un altro discorso, capito? Tu vai in malattia normalmente, tu vai in malattia, in quel momento è licenziato, per la legge italiana, poi i giorni magari ne cambieranno, però per il momento è così. Capagazzo. Sì, poi sì, licenziato quando sei malattia dopo 6 mesi, che poi non è poi così, che poi ti trova bene, non è così, sì è vero che devi 180 giorni, però è sempre, non è così facile comunque, perché poi non è perché tu hai fatto 6 mesi, cioè ci sono dei problemi, ci si può licenziare, ma poi c'è un po'. Allora, chi ha l'invalidità ha praticamente un mese in più degli altri da fare. E io ho fatto anche quel mese lì, me l'hanno messo in conto. Ma te ti ha licenziato dopo 6 mesi o cosa è successo? Quello che voglio dire. Cioè, potrebbe anche licenziare e poi capisce il giudice se era o non era, se l'ha fatta apposta, se non l'ha fatta. Perché anche così è veramente perseguibile la tua lavoro. Capito? Io non c'entra niente, io ho fatto 3 settimane in malattia perché è successo questo, c'era poco lavoro, capito? E quindi io mi stavo male. E quindi siamo arrivati io e una, vabbè comunque ho detto vabbè io me ne resto a casa, capito, vado in malattia e così via. Ecco perché questo è togo di quelli che era convinto da te, quindi vabbè si è accettato a tutti. Agli altri li ha accettati per mancanza di lavoro e anche a me, però il problema qual è? Che a me mi doveva tenere perché io sono ancora in forza, comunque ero in forza anche all'inizio. All'inizio che una parte la paga lui e una parte la paga l'Inzi, quindi ecco perché sono tutelato queste cose. Quindi io dovevo per forza rientrare al lavoro e poi licenziare. E aspetta il giorno mi poteva fare. Lo so. Però no, purtroppo non l'ha fatto e lui si è incurato. Adesso vediamo come va a finire, magari trovano l'inghippi loro per appigliarsi, maledetti. Ma guarda, sai cosa ha fatto a questo? Siccome lì, era anche finito il contratto, e nella settimana qui a Malpia lui ha ripreso il contratto, lui ha detto che il contratto era diverso, lui ha detto che il contratto era diverso, lui ha detto che le altre persone, che facevano il lavoro, ma questo non vuol dire niente, lui non sono scuse, poi ci sono delle cose che non c'erano troppo a alleviare. Thank you. numero 10? Canale 10. Sento canale 10, c'è qualcuno su 10? C'è qualcuno su 10? Che è? Sono, non stai uscendo probabilmente. Ora, attenzione 10. Che avanti, ecco 10, Breco Italia, Breco Italia, sento Breco Italia, sento 10, c'è qualcuno su 10? Sento 10, c'è qualcuno? Attenzione 10. Sento 10. C'è qualcuno su 10? C'è nessuno? C'è qualcuno su 10? C'è Q10, c'è qualcuno? C'è Q, c'è qualcuno sul canale 10? Station Scirocco Mobil für Radio Scorpion. Attento collega, se ascolti la Sardegna. Attento collega, se ascolti la Sardegna, Brecche. Attento amico, sei un pochino bassino, Non so se tu riesci ad ascoltarmi, ma io ti sento molto basso. Comunque ti saluto, avanti. Giulio da Sassari, K. Station Scirocco. Radio 10, attenzione, canale 10, ascoltate l'isola sarda di Chiala, Gambir. Buttalo via, buttalo via, l'aeroplano. Ciao già. Ehi, c'era uno che stava chiamando, adesso avanti, ma quando ho chiamato, ma era basso. Vabbè, già lo sentivo lo stesso, ma non mi piace, quando è troppo basso non mi piace. No, stavo provando l'elicottero, questo che era un po' che non l'accendevo, adesso tocca a lui, perché io li faccio girare tutti. Poi abbiamo il Cobra che è un po' abbandonato a parte, non lo sta accendendo, sto usando molto il 3009 in questi giorni. E niente, perché l'ho tutto regolato, fatto. Adesso li abbassate il watt e va benissimo. Ok già. Va bene, dai. Ma il Cobra, il 3009 te l'hai comprato da poco adesso? Nuovo o di seconda? ma l'ha venduto Eugenio che l'aveva comprato da poco e diciamo che è nuovo, mi ha dato in scatola col nylon tutto quanto, c'è ancora il nylon attaccato, glielo ho staccato io il nylon. Nuovo era, dai. Ah, ok, e lui cosa si è comprato? Lui ha detto che si doveva comprare un 140 o un 440, adesso vediamo cosa si compra. Io ho fatto l'affare perché questo che è nuovo, sapevo che l'avevo comprato pochi mesi fa, c'ho garanzia e tutto, capito? Sì, lo so, è quello di Eugenio, lo so, l'ho comprato da poco, per cui poi andava molto bene, andava molto bene col baracchino di Eugenio. Perché deve abbassare i watt, Gianni? Per usare anche il 747? Perché distorceva se usavi il 747, capito? Beh, certo, appunto, per quello sì. E vabbè, comunque. Va bene, hai fatto bene. 2009 è una bellissima radio di lusso. E quello che mi ha mandato l'altro giorno il video, ti ho chiesto controllo. Esatto, quello lì. E praticamente io ho voluto questo qua, perché quello digitale non mi piace, non mi piace più questo. Proprio preferivo questo di quello digitale, a me la roba digitale non è che mi piaccia molto. Sì, ma nemmeno a me, hai ragione. Per me l'analogico è migliore, almeno vedi lo strumento, vedi tranquillo, mentre invece con questi puntini, questi LED che si accendono, lasciamo perdere. Sì, non sono male nemmeno quelli, però io preferisco sempre quelli a lancetta. Sicuramente è più bello, perlomeno per me è più bello, poi ognuno la pensa come crede, ci mancherebbe. No, stamattina mi sono stato un paio d'ore, sono incominciato dai canali bassi e sono finito sino ai canali 27650 e oltre, no? In banda laterale, dappertutto, ho fatto di X, una ventina di X stamane ho fatto, tranquillamente, alla grande. Io Pavia stava piovendo a dirotto. Poi Monza, Pavia, Monza, poi ho fatto la zona di Palermo, tutta quella zona lì, in Sicilia. No, ne ho fatto anche io, non dico 20, ma un bel po' li ho fatti. Breco. Avanti, breco. Registrato. Sì, te lo sto dicendo, io, no, ma sono stato io un paio d'ore, tranquillamente. Non c'era nessuno, la sassa non c'era nessuno. Quando la chiamavo, quella la prima chiamata ti rispondevano tutti. Ancona, Riccione, Caltanissetta, Roma addirittura, cosa che è molto difficile a Roma, eppure anche quello collegato. E tanti altri, Torino, Venezia, insomma tutta l'Italia in poche parole. Poi gli stranieri c'erano anche, però non la lingua, per cui non ho fatto una chiamata, ma ho detto avanti Italia, ma poi cosa gli dicevo? Se fischiamo, forse la lingua straniera l'avrebbero capito, ma non so nemmeno fischiare, per cui avanti Tino. Ciao a tutti, prova microfonica, ho cambiato microfono, giusto per vedere se va bene anche questo in questa radio. Già va bene, sì, alla grande, non c'è problema, c'è anche Gianni con me, avanti Gianni, Bertino. Infatti, ok, dai, già va bene, c'è di lusso, va benissimo, dai, adesso questa radio mi sa che la stacco e provo l'altra, la faccio scaldare un pochettino e poi proviamo il cover, che li faccio girare tutti. Ogni tanto bisogna fare girare. Va bene, già, attacca, no, non è un problema. Attacca, già siamo qua. Avanti Tino, stai pompando bene, bello. No, è perché mi ha fatto il microfono, Antonio, questo qua era il G5, che non so cosa sia successo, falso contatto, andava praticamente, schiacciava la portante di cambiare il canale, Giulio, quindi... però sinceramente non so se l'amplificazione è alta, bassa, i toni, capito, questo è più 5. No, va bene. Sì, va bene, magari c'è uno. No, non è un innesco, ma diciamo che qualche fischietto, forse perché è troppo alto il microfono, sarà per quello. No, ma parlo del segnale, stai andando 9 più 25 qua, la grande, proprio, stai pompando a tutta birra. Cosa stai usando? 555? Sì, sì, Giulio, l'ho passato, buona vedere se sta ancora fischiando, a parte l'uccello che c'è in cucina. Ok, adesso va anche meglio, adesso va anche meglio con la radio, è più accettabile, prima era buonissima, adesso è ultima. Va bene, sì, va bene, vediamo se Gianni ha cambiato. Gianni, hai cambiato? No, ha scritto a media sciocco, ha scritto per farsene portare un altro, così cambiava o Tino, adesso fra un po' arriva. Martino, no, va benissimo, alla grande, via, voglia. Martino va bene, 555 è un ultimo, è un superstar, mi sempre, sia, sempre lì, è della stessa famiglia. Sì, aspetta che faccio un'altra prova giù, perché prima mi innescava, l'ho dovuto mettere sopra la radio per non innescare, invece così sta innescando. No, Tino, non sta innescando, ma abbassa appena perché è troppo alto il microfono. Quello volevo sapere, perché io ho parlato per istante, guarda Gianni, te lo abbasso, l'ho abbassato, diciamo, ora è mezzogiorno. Guarda un attimino, poi mi dici se i tuni vogliono abbassati o meno. Questa è la mia modalità di emissione, diciamo. Adesso sei un bijou, dai, già va bene. Così a me piace. Giulio, avanti. Ok, già, sì, in effetti la radio quando è troppo forte non è... Sì, bella, chiara, d'accordo, tutto quello che vuoi, però secondo me anche stanca un pochino, alla lunga stanca un pochino ascoltarla. Mentre invece adesso che l'hai abbassato va molto meglio. Io la preferisco così come Gianni. Va bene, ti vai, riprendi. Sì, vabbè, giustamente poi è inutile essere sempre prepotente quando poi dà fastidio. No, ti ripeto Giulio, ho un microfono che mi ha aggiustato Antonio, volevo solo verificare, perché in questa posizione prima innescava, hai capito? Prima innescava, quindi adesso sono contento, non fa quell'innesco, e poi anche quando appoggiavo la mano, non so, guarda, adesso provo. Mi darete conferma, lo sto appoggiando la mano, non so se sta innescando, No, non sta innescando, va bene, Tino. Tittoni, a quanto ce li hai? Adesso sono a 2. A 2, figurati, tu c'hai tu di base, cos'è? Ne bevi più 5 quello. E praticamente anche a 2 tu c'hai la voce corposa e quindi arrivi bello pomposo. Ma guarda, un po' basso, guarda, così a 0. Così a 0-0, proprio non, oltre non va, ha cambiato. Per me questa qui è la posizione ideale. Ma io non so, non riesco a ascoltarmi, quindi non lo so. Ti posso far sentire il più 4 per fare una comparazione, diciamo. Aspetta, così mi dici, lo monto e metto il più 4, quello che avevo prima. Ma è sempre questione di gusti, Tino. Va bene così, andava bene prima, eccetera, eccetera. Non c'è problema. Tu già hai una voce con abbastanza bassi, per cui anche se metti un po' di toni, se li aumenti va bene lo stesso, sono più che convinto. Anzi, adesso che li hai abbassati l'hai irrobustita ancora di più la modulazione. Però secondo me andava bene anche a 2, anzi forse anche a 3, a 4. Oh, potrebbe andare bene, ne sono più che convinto, così gli dai un po' di toni alti anche. Però ripeto, ognuno ascolta con la radio che ha, perché da radio a radio c'è anche differenza in ricezione, oltre al fatto del gusto personale, sicuramente così. Avanti Gianni. Aspetta, ecco, questo qua è il 4, Gianni. Questo è il 4, quello che utilizzavo sempre prima. C'è differenza tra uno e l'altro? Gianni, non riprendo, allora riprendo io, sì. Questo è più basso, adesso come adesso è più basso come amplificazione. Per cui, però è chiarissima e tranquilla, non c'è problema, Oti. Va benissimo anche questa. Però è abbastanza più bassa rispetto a quella di prima. Forse deve aumentare il volume. Invece questo qua è più 5, giù, quello che avevo prima, diciamo, Sì, No, B5 lo sto dicendo, è più amplificato, adesso bisogna vedere a che livello ce l'hai il volume, sia nell'uno che nell'altro. Anch'io sto usando l'MB più 4, se per quello, così mi hanno detto che mi si addice di più alla mia voce, visto e considerato che io non ho toni bassi, mentre invece l'MB più 4 un po' di toni bassi ce l'ha, e allora diciamo che regola un pochino la mia voce. Cosa vuoi che ti dica? Ripeto, è sempre questione di gusti. A me mi vanno bene in tutte e due, con tutti e due i microfoni. Però ripeto, l'MB più 5 era più amplificato, forse dovevi aumentare di più il volume del più 4, questo non lo so. Sì, no, parla col più 5 e col più 4 che ti sto registrando. Questo è il più 5, diciamo che ho il volume microfonico a 6 e i toni, Gianni mi ha detto di toglierli, quindi è a 0, questo è il più 5. Mentre invece l'altro, Giulio, avevo il volume a quasi a 8, quindi molto più amplificato doveva essere l'altro. Va bene, faccio un altro passaggio, Va bene, provati, già siamo qua, non c'è problema. E allora vuol dire che nel più 4 c'è la batteria un po' scarica, perché mi sembra un po' strano che a 8 non possa avere almeno lo stesso volume del più 5. Vabbè, hai cambiato T, vediamo. Sì, invece questo qua è il più 4 con il volume 8, non so, vabbè, se volete lo aumento anche appena, non vorrei magari dopo disturbasse. Ok, questo è il più 4. Ok Gianni. Ecco. Ehi, vado a prendere il telefono, vai. Vabbè, ma se mi dite che va bene il più 5, metto il più 5, non sto lì a regolare a fare. Ripeto, il più 5 è più amplificato, considerando anche che quando ce l'hai a 8, strano, non capisco tutta questa differenza fra un microfono e l'altro, però appunto, se quello là ce l'hai a 6 e questo ce l'hai a 8, e a 6 è più amplificato di 8, cosa volete dica? Evidentemente è così, o perlomeno Antonio gli ha fatto qualche modifica e l'ha potenziato quello 5, sarà pure così, non lo so che cosa gli ha fatto. Gianni, ci sì. Ecco. Sì, quindi sì, comunque Giulio, non so che quando entrano i microfoni in mano Antonio non hanno scampo. Sì, ma poi glielo ho chiesto anch'io, voglio la controllata, se è possibile, insomma, entro le cacciavite. Brecco. Avanti Brecco, l'ha registrato da poc'anzi, forse non mi hai sentito, avanti Brecco. Infatti quando sto uscendo dal radio ho detto boh che strano, dai. Ok, ciao Tino, ciao Gianni e ciao Giulio. Pensavo non mi avessi ascoltato. No, ti avevo detto ho registrato, forse la propagazione mi ha coperto, non lo so, sarà per quello. Gianni deve essere che si è sentato oppure al telefono. Gianni Magni, avvisi o no? Sono sempre qua, stavo facendo la registrazione a Tino, ma tu non hai capito. Ma se non rispondi quando ti chiamano. Io non so se tu stai facendo il cameraman. È entrato Roberto anche, avanti Gianni. Ciao Roberto, buonasera anche a te, dai. Mi hai sentito, avanti. Aspetta Roberto, tu che sei il tecnico. Ho rimesso il più 5, guarda se i parametri sono giusti, per favore, così non so regolare e uscire fuori di testa.